Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Inizio anche questa sera con mezz'ora di ritardo, ma il tempo è barbino e faccio quello che posso. Il tempo, non solo il tempo nel senso dell'orologio, anche il tempo nel senso atmosferico. Qui piove da 2 settimane circa. Io lo scorso sabato, tornando a casa da una lunghissima serata, mi sono trovato anche 5 centimetri di acqua in casa, in cucina, e quindi sono, secondo me, giustificato. Anzi, sono bravissimo, perché nonostante tutto sono qua ai microfoni di Radio Wombat a fare la consueta puntata di Coccoli al Silicio. E oggi non ho il mio socio dell'altra volta, penso per un inconveniente di... cioè non ce lo siamo detti che questo lunedì si rifaceva, e siccome anche lui era con me sabato a prendersi un sacco d'acqua, magari è malato. Io non ho effettivamente telefonato per sapere se sarebbe venuto o meno, così per bon ton ho detto fair play, savoir faire, insomma facciamo finta di niente e concediamogli una settimana di riposo, anche perché se me lo tartasso troppo me lo gioco e poi non viene più. Quindi, per riprendere il discorso sui brevetti e le infamate a Tesla e Edison che abbiamo iniziato la volta scorsa, attenderemo ancora una settimana, probabilmente lunedì prossimo avremo la continuazione. Per oggi sono solo soletto e quindi riprendo come di consueto con l'aggiornamento dell'attività di IFDU. Lo scorso mercoledì abbiamo continuato il corso di reversing, che ha fatto una piccola deviazione su l'aggeggiare i file in formato ELF. In particolare abbiamo prodotto una cosa più o meno funzionante che patcha un eseguibile ELF, trasformando un segmento ptnot in un segmento ptload, e inserendo il codice arbitrario, poi modificando l'entry point si salta sostanzialmente al nostro codice, e poi con un escamotage sostanzialmente il nostro codice forca. E quindi da una parte si esegue il codice scherzoso barbino che abbiamo voluto inserire nell'eseguibile, dall'altra parte l'eseguibile deve tornare a fare il suo normale corso. Cioè, volgarmente detta, sarebbe una backdoor sostanzialmente, che abbiamo prodotto così per gioco, come di consueto. Il prossimo mercoledì non abbiamo cose ufficiali in programma, ma cose ufficiose sì. Pare ci dedicheremo alla costruzione di una loop antenna da utilizzare per prendere meglio il segnale di Radio Wombat in onde medie. E abbiamo guardato un sacco di video tutorial per questo sull'internet. Abbiamo deciso ne vogliamo anche noi uno di questi strambi marchingegni. E quindi, se qualcuno di voi ascoltatori ci verrà a trovare in quel del Next Emerson mercoledì prossimo, ci troverà intenti a fare questa cosa buffa buffa. E altri appuntamenti alla vista no, non ci sono qua nel Fiorentino, appuntamenti a Carose intendo. Però sta sostanzialmente prendendo forma il NAC a Napoli a fine mese. Questo incontro, che ha come sottotitolo quest'anno Breaking the Loop, sarà il 29, il 30 e il 1° dicembre. Il 29 al terzo piano autogestito e il 30 e l'1 alla mensa occupata in quel di Napoli. Il programma non è ancora pubblicato, però il sito ora sembra più vero rispetto alla settimana scorsa, e ci sono già alcune cose segnate. Per il sabato la sezione talk è ancora in divenire, si sa solo che inizierà alle 15, alle 20 ci sarà la cena, e alle 22 il consueto hacking contest, una sorta di capture the flag per chi ci sarà a giocare lì, che andrà avanti se come gli altri anni tutta la notte. Io spero che in realtà di risolvere le cose prima, perché a me a una certa ora mi viene sonno e quindi non riesco ad andare avanti tutta la notte. Così, perché ho una certa età ormai. E con questo appuntamento non fiorentino ma napoletano di fine mese, chiudo la prima parte della puntata, e nei prossimi minuti, cioè, da qui a mezz'oretta, diciamo, ho alcune news informaticose, perché se sono da solo poi ricado sempre nelle cose che faccio du durante la settimana, e io mi cioè per lenire la noia, di solito scartabello nel mondo dell'IT security a trovare le cose che più mi interessano, mi colpiscono, e poi ve le racconto, e questo avverrà dopo un pochino di musica. La prima notiziola dal mondo, insomma, della noiosa IT security, cioè renderla divertente alla fine, sono soltanto i bug, in realtà. Insomma, il primo che vi volevo raccontare è un nuovo bug di WhatsApp. Pare questo sia, come sempre, non tutto è troppo dettagliato, però si parla di uno stack-based buffer overflow, quindi un attacco ve vecchio stile. Tra l'altro è un attacco che coinvolge i metadati legati al formato MP4. Questa è una cosa abbastanza, cioè, tipica, in realtà mi è venuto in mente perché se leggete un libro di qualche anno fa che si chiama, mi sembra, The Bug Bounty Diary, una cosa del genere, cioè l'autore trova proprio e racconta come una vulnerabilità per Android proprio analizzando la gestione dello stack preposto, cioè delle librerie preposte alla gestione del formato MP4. Quindi evidentemente è una roba proficua, questa è par di sì. E tra l'altro non è cioè una di queste vulnerabilità che spuntano fuori a un po' di mesi una dall'altra, però coinvolgono sempre questo maledetto coso di WhatsApp. Un po' di tempo fa si parlò di una vulnerabilità legata alla parte VoIP sfruttata dall'NSO, che è questa compagnia israeliana che sostanzialmente produce malware e li rivende ai governi, cioè si procura da sola, penso, ricerca zero days e poi li rivende, e poi dopo un po', quando usandoli magari qualcuno se ne accorge e glieli brucia. Ecco, questa era di un po' di tempo fa, ma ce n'era ancora un'altra, sempre legata a questa NSO che coinvolgeva Facebook questa volta. Ce ne sono tante, una in particolare che è assimilabile a questa, mi sembra di un po' di tempo fa, era legata alle preview delle immagini di WhatsApp, e coinvolgeva questa volta una libreria che aveva a che fare con la gestione delle GIF. Quindi boh, è un po' così. Con questo non so che altro dirvi se non, boh, non usate WhatsApp. Cioè, tanto che ve ne frega di usare WhatsApp? Cioè, tutti lo usano, è comodo, ti fa risparmiare sulle telefonate? Boh, che ne so io. In generale ti arrivano tanti messaggini divertenti, e sì, può darsi, non lo so. Comunque perdi anche un sacco di tempo, cioè si vive bene anche senza, è un'ottima misura di sicurezza, è quello. Cioè, non usate WhatsApp. Cioè, non usate neanche gli smartphone, ma chi se ne frega. Cioè, vanno così bene i vecchi te telefoni che fanno solo le telefonate, forse. E, boh, a me mi bastano. Poi uno potrà dire, ma vivi in un altro tempo, non sei al passo con le cose del contemporaneo. E forse, non lo so, fatto sta che io leggo tutte queste cose e poi alla fine dico, ma chi se ne frega, e pace. E con questo vi lascio un altro po' di musichina e poi passiamo a un'altra notiziola sempre in stile tipo queste qua, insomma. La prossima notiziola invece riguarda de degli oggetti strambi, chiamati l'acronimo TPM, cioè Trusted Platform Module. Sono dei cosi che vengono, sono hardware questi, vengono aggiunti laddove sia necessario, si reputi necessario aggiungere uno strato hardware che renda più sicuro l'architettura sovrastante e sottostante, cioè se anche i bug sono da altre parti nel software, cioè dovrebbero arrivare questi TMP a dare una mano. Ed è buffo quando si scopre, sono venute fuori due vulnerabilità anche abbastanza astruse, però tendenzialmente da avversari cosiddetti privilegiati, cioè chi sostanzialmente può monitorare l'hardware dell'architettura sottostante. Ecco, ci sono un po' di problematiche crittografiche legate a due CVE che sono uscite ultimamente e che appunto ravvisano dei problemi direttamente in questi chip. È disponibile anche un proof of concept su GitHub, che magari vi linko poi sul post della trasmissione di quest'oggi, e sono abbastanza complesse da comprendere, però comunque Ganze nella appunto in quest'ottica che cioè è buffo che un oggetto fatto per aggiungere strati di sicurezza sia poi in realtà a sua volta attaccabile, e questo non è che vi deve far tremare nel letto, pace, cioè pazienza, però è comunque una roba buffa, perché sono tutti questi strati di sicurezza che uno aggiunge, e poi non si capisce quanto lo sforzo di aggiungi, porti poi a dei risultati. No, senz'altro ce li ha, però ecco, diciamo che chi ha molte ri risorse, lo sgamotto, sembra comunque riuscire a trovarlo, e di questo tenore è anche l'altra notiziola che ho, ma ve la do dopo un altro po' di musichina, visto che oggi appunto sono solo soletto, e quindi se tendenzialmente non metto anche un po' di musichina tra un pezzo e l'altro, praticamente tra 2 minuti ho finito la trasmissione. Thank you. la prossima notizia invece riguarda una cosa da un nome molto molto cool, molto figo, che è uscita a maggio. Gli hanno trovato un nome di quelli che colpiscono, Zombie Load. Si parla di Zombie Load Attack, il sottotitolo è Return of the Licking Dead, è molto molto molto d'effetto secondo me. E tra parentesi, secondo me le vulnerabilità con dei nomi ganzi cioè sono più cool in generale, e di conseguenza anche durano di più nel tempo. Non so come mai mi sono fatto questa convinzione, cioè mi sono convinto di questa cosa da solo, che non è basata su nient'altro che cioè un giudizio totalmente estetico. Ecco. E questo Zombie Load a maggio era uscito con una prima va variante che era sostanzialmente un attacco tipo Meltdown, e sembrava una roba abbastanza ganza, tra l'altro provata anche per rubare memoria dalla virtual machine, no? Tra virtual machine, quindi ottima per gli ambienti cloud. Sembra sì, ottimo. E questa invece riguarda un'altra parte di quelle cose strane prodotte dagli ingegneri dell'Intel per sostanzialmente aumentare le performance dei processori, che appunto più di tot non spingono se non ci metti degli escamotage ormai. E questi escamotage, diciamo, in particolare questo, diciamo, risiede in una strana componente che si chiama Transactional Synchronization Extension, ed è una roba che dovrebbe sostanzialmente servire per ottimizzare le prestazioni in caso di software multithread. E quindi tendenzialmente una roba cioè, utile con i moderni sistemi operativi, i moderni programmi che threadano a bestia. Ebbene, questo però introduce come alcune parti di queste architetture dove diciamo, la sicurezza è un requisito ricercato ma non indispensabile, perché la parte interessante è appunto quella di aumentare le performance, e più di tanti controlli di sicurezza non si possono fare per non perdere tendenzialmente diciamo, i cicli di CPU che abbiamo guadagnato introducendo le future per accelerare, no? E quindi è un terreno abbastanza fertile, infatti ne stanno uscendo tante di queste cose, non semplice da ricercare, probabilmente anche perché tutto questo diciamo, è documentato, ma solo fino a un certo punto, ed è comunque di difficile comprensione, ecco, e di difficile test anche. Ebbene, questa nuova, quindi, che è uscita riguarda appunto questo buffo componente, l'hanno più o meno verificata su diversi processori, tutti moderni, i 7, i 9, e anche parecchi di quelli di classe Xeon, quindi quelli diciamo molto, molto fighi, e questi dalla tabellina che hanno rilasciato li hanno provati anche in ambienti cloud, quindi per sincerarsi che effettivamente riuscivano a pescare dati da una virtual machine all'altra. È stata rilasciata una patch che potete scaricarvi, ma chi se ne frega, nel senso io mi occupo solo delle magagne e non delle soluzioni, così perché sono più divertenti essenzialmente. E niente, questa, appunto, se ve la volete andare a cercare, è questa seconda diciamo variante di questo Zombie Load. Magari anche di questa vi lascio un link poi sul blog. E ora un altro po' di musica, magari mi invento qualche altra notiziola se ci riesco, o altrimenti vado con i saluti finali o qualche sproloquio del tipo. We'll be right back. Sul tema delle notizie già date, me ne sotto gli occhi un'altra. Questa riguarda i chip di un'azienda, la Qualcomm, che in realtà sono molto utilizzati su parecchi device, specialmente robe smartphone e tablet Android. Ebbene, anche questa è buffa perché riguarda appunto un'architettura che dovrebbe essere preposta a gestire, diciamo, in sicurezza i vostri oggetti, è un altro strato di sicurezza. In particolare, i ricercatori si sono prodigati nello studiare questo Secure Execution Environment della Qualcomm e hanno riscontrato che, sviluppando, tra l'altro è interessante perché hanno sviluppato un fuzzer, cioè qualcosa che testa questi oggetti fatto apposta per testare questi chip, e hanno trovato una discreta serie di vulnerabilità che in realtà possono essere utilizzate, boh, per svariate cose. In particolare, forse la cosa che ricade più sugli utenti è il routing del device, lo sblocco del bootloader e poi chiaramente anche a quel punto l'esecuzione di codice o l'esfiltrazione di dati che normalmente dovrebbero essere protetti da questo strato, di cose. E da segnalare come le cose, cioè questi chipset della Qualcomm, siano anche su parecchi device cosiddetti IoT, e non sono noti, cioè non sono note, cioè non hanno rilasciato troppi dettagli. Magari nei prossimi mesi qualcosina in più uscirà di quello che c'è, però no, c'è un lungo elenco di CVE che sarebbe interessante andare a guardare, ma non li ho guardati, però vi segnalo la cosa se siete appassionati di queste robe. Magari una ri ricerca veloce in rete vi può aiutare diciamo, a pagare la vostra curiosità. Io butto lì sostanzialmente delle cose, poi chi le coglie, gli altri lo usano solo così per informazione, per fare bella figura, per ciacolare con gli amici al bar. Cioè, non lo so se parlate di queste cose, io spero di no, ma se siete tra quelli che lo fanno, poveri voi, e vabbè, pazienza. E con questo chiudo anche questa puntata spot, molto veloce, un 20 minuti, mezz'oretta al massimo, e vi do appuntamento al prossimo lunedì, dove sarò di nuovo, credo, accompagnato ai microfoni per una puntata dal piglio più filosofico, storico, di, insomma, non so, queste cavolate che vi racconto io ogni tanto. E saluto tutte e tutti, vi auguro una buonanotte, espletati questi post convenevoli, cioè questi sono quelli di quando si va via. Io in realtà sono solito a andare via senza salutare di solito, però in trasmissione sono molto più educato e polite che non dal vivo.